24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Libia, retromarcia del ministro degli esteri italiano Frattini, la tregua era solo un'ipotesi, Rasmussen conferma, continueremo a bombardare. Il governo greco ottiene la fiducia del Parlamento, ma Atene fa ancora paura, i listini del vecchio continente falliscono il rimbalzo. Il calcio, un portoghese a Londra, arriva al Chelsea, André Villas-Boas. Bentrovati da Roberta Pellegatta ad un nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In apertura la Libia con il ministro degli esteri Franco Frattini che ha definito necessaria una sospensione immediata delle ostilità per consentire gli aiuti umanitari. Dopo il secco no della Francia e della Gran Bretagna, la diplomazia italiana ha fatto però retromarcia. Coro di no alla proposta di un cessate il fuoco in Libia per consentire la creazione di un corridoio umanitario avanzata dal ministro degli esteri italiano Franco Frattini. Il premier britannico David Cameron, tramite il suo portavoce, ha fatto sapere che la coalizione internazionale non deve fermare le operazioni militari iniziate il 19 marzo scorso. Si è detto contrario ad uno stop anche il ministro francese degli esteri Alain Juppé. Ha risposto a Frattini inoltre il canadese Charles Bouchard, capo della missione NATO, specificando che se si interrompesse l'intervento occidentale le forze fedeli a Muammar Gheddafi avrebbero tempo e modo di riarmarsi. In un videomessaggio il segretario generale della NATO Anders Rasmussen ha poi spiegato che le operazioni continueranno perché diversamente un numero indefinito di civili perderebbe la vita. Mi rammarico profondamente della perdita di tutte le vite umane in questo conflitto, ma sono le forze del regime di Gheddafi che bombardano la città con carri armati e artiglieria pesante, non la NATO, ha aggiunto Rasmussen. Ed è il regime di Gheddafi che lancia dei missili da moschee e bunker situati in prossimità di aree di gioco per bambini, ha concluso. Diplomaticamente la portavoce NATO Oana Lungescu ha detto che le parole del segretario generale non sarebbero una risposta a Frattini, ma un semplice commento nel blog che tiene regolarmente per aggiornare i cittadini sulle operazioni, aggiungendo che con il titolare della Farnesina la NATO condivide l'urgenza di trovare al più presto una soluzione politica. Infine arriva il dietrofront del Ministero degli Esteri con il portavoce Maurizio Massari che dichiara ai microfoni di Al Jazeera è soltanto un'ipotesi di lavoro, non è in alcun modo una proposta specifica. Giuseppe Asta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Di fronte ai flussi migratori seguiti alla primavera araba, i leader dell'Unione Europea devono dimostrare di essere seri e smettere di essere ostaggi del populismo. Lo dice la commissaria per gli affari interni Malmström alla vigilia del vertice europeo. La Malmström denuncia una xenofobia in crescita. La Francia ha ribadito il sostegno alla nomina di Mario Draghi alla presidenza della Banca Centrale Europea, ha spiegato che non viene condizionato dall'uscita dell'altro italiano nel board, Lorenzo Binismaghi. In Grecia adesso, dove il nuovo governo approntato venerdì scorso dal premier socialista Papandreou ha superato il voto di fiducia in Parlamento. Nel nuovo esecutivo spicca il neo vice premier e ministro delle finanze Venizelos, che avrà come prossimo appuntamento cruciale il voto sul nuovo piano di tagli per ottenere la quinta tranche da 12 miliardi del prestito concesso un anno fa da Unione Europea e Fondo Monetario. Hanno chiuso in lieve calo le principali borse europee, vanificando nel finale il tentativo di recupero registrato dopo l'avvio delle contrattazioni a Wall Street. A soffrire meno sono state le piazze dell'Eurozona, mentre hanno frenato con maggiore decisione Stoccolma e Zurigo, debole anche Atene. Le borse europee falliscono in rimbalzo dopo la fiducia incassata dal governo greco. Ieri, dopo una seduta vissuta a cavallo della parità, Francoforte e Parigi hanno perso lo 0,1%. A Milano il FTSE MIB ha ceduto lo 0,44% e lo share lo 0,49%. A Piazza Affari il tema dominante della seduta è rappresentato dalla Galassia Ligresti, con Fondiaria Sai e Milano Assicurazioni, che cedono oltre il 4%. Fonsai lunedì prossimo vedrà partire un aumento di capitale da 450 milioni di euro, previsto a forte sconto rispetto alle condizioni di mercato. Di tutt'altro tenore invece l'andamento di Lottomatica, più 3,7%, che conferma l'ottimo momento borsistico grazie al balzo del mercato delle lotterie registrato a maggio. Enel, più 1,4%, festeggia la ripartenza della conversione della centrale a carbone di Porto Tolle, sul delta del Po. Ceo Condina da Radio Corp per Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il maggior rischio per il sistema bancario europeo viene dalla crisi del debito sovrano, lo ha detto il presidente della BCE Jean-Claude Trichet parlando a Francoforte. La minaccia più grave alla stabilità finanziaria dell'Unione Europea, ha detto, deriva dalle interconnessioni tra le vulnerabilità delle finanze pubbliche in alcuni stati dell'Unione e il sistema bancario, con il rischio potenziale di un contagio a tutta l'Unione e oltre. Voltiamo pagina. Dopo la decisione della Germania di rinunciare all'atomo e il risultato del referendum sul nucleare in Italia, Radio 24 ha dato il via ad un percorso di approfondimento sulle risorse energetiche tradizionali e rinnovabili, sulla loro integrazione e sugli sviluppi possibili. Le rinnovabili sono una scommessa, fotovoltaico, eolico, biomasse, oggi non sono ancora competitive con i combustibili fossili. Ma per quanto tempo? Ancora? Il trend degli ultimi anni infatti fa ben sperare, con il fotovoltaico che si è dimezzato di prezzo in soli 3 anni. Ma le speranze sono riposte soprattutto in alcune tecnologie che sembrano pronte a esordire sul mercato, che potrebbero far fare un balzo di efficienza in termini economici a queste fonti. L'eolico ad alta quota, per esempio, che vede una piccola società italiana, Kaigen, impegnata in un progetto in cui sofisticati aquiloni potrebbero sostituire le grandi pale eoliche, produrre così energia ad un costo che sarebbe già oggi immediatamente competitivo con quello delle fonti fossili. Mentre per quanto concerne i biocombustibili di seconda generazione, potrebbe essere in arrivo etanolo a un costo addirittura inferiore a quello della benzina. E anche sul fotovoltaico ci sono novità in arrivo. La grid parity, insomma, è alle porte. Maurizio Melis, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il 20 ottobre saranno lanciati i primi 2 satelliti operativi di Galileo, il sistema globale di navigazione satellitare dell'Unione Europea. L'Agenzia Spaziale Europea, su delega della Commissione di Bruxelles, ha firmato gli ultimi 2 dei 6 contratti per la fase operativa di Galileo, il primo sistema satellitare a copertura mondiale gestito dalle autorità civili di Bruxelles e non, come avviene negli Stati Uniti, dai militari con il GPS. Il valore complessivo dei 2 contratti è di 355 milioni di euro e le 2 aziende sono la franco-italiana Thales Alenia Space e la britannica Astrium. Il lancio dei primi 2 satelliti della costellazione Galileo avverrà il 20 ottobre dal centro spaziale di Kourou, nella Guyana francese, e i primi servizi dovrebbero essere disponibili nel 2014. Saranno 4 da quello base, che fornirà segnali per il posizionamento e la navigazione, accessibili gratuitamente a chiunque. Gli altri 3 tipi saranno invece riservati alle forze dell'ordine, in generale alle istituzioni europee come protezione civile o servizi di emergenza, oppure saranno a pagamento e riservati agli operatori professionali. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il calcio adesso. I londinesi del Chelsea hanno scoperto che il loro allenatore arriva dal Portogallo, ma non è José Mourinho. Uno special 2 per la panchina che fu di José Mourinho, l'unico vero special 1. Con un blitz a sorprese, 15 milioni di euro in contanti, Roman Abramovich ha strappato al Porto il suo enfant prodige, André Villas-Boas, nuovo manager del Chelsea. Contratto di 3 anni per il 34enne tecnico portoghese, da ora ufficialmente alla guida dei Blues. Un ritorno allo Stamford Bridge per il più corteggiato allenatore d'Europa, che dopo aver vinto tutto con il Porto, campionato, Coppa Nazionale, Europa League in questa stagione, è stato il sogno proibito tra le altre di Inter e Juventus, tutte però dissuase dalla clausola rescissoria inserita nel suo contratto con i portoghesi, 15 milioni di fronte ai quali invece Abramovich non ha avuto alcuna esitazione, letteralmente conquistato dall'ex assistente di Mourinho, che ora guadagnerà 5 milioni netti di euro a stagione. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A Milano il Festival Multimediale delle Università e delle Scuole di Cinema dell'Unione Europea è la prima edizione dello Jun Film Happening. Al microfono di Marta Cagnola, il critico cinematografico e preside di facoltà dell'Ateneo Milanese Gianni Canova. Lo Jun Film Happening è una rassegna di film realizzati da studenti delle Scuole di Cinema e di Comunicazione dell'Unione Europea. I film finalisti si possono votare online sul sito www.yulm.it e poi una giuria composta dai professori di cinema e televisione di tutte le università italiane sceglierà i filmati vincitori, che verranno premiati venerdì 24. L'idea è che l'università non debba più essere soltanto un luogo in cui si trasmettono i nobili saperi del passato, ma anche un luogo in cui si progettano e si mettono a punto i linguaggi e i saperi del presente e del futuro, mescolando culture, mescolando punti di vista, saperi, per cui alla IULM ci sarà davvero un campus europeo. Ci sarà uno spazio dedicato anche ai ragazzi che hanno influenzato l'esito delle ultime elezioni amministrative e dei referendum, mettendo in rete, piccoli film costati meno di 10 euro che hanno avuto 600-700 mila visioni. Cercheremo di raccontare come la rete, recuperando l'immaginario cinematografico, batta ormai la televisione. È tutto per questo appuntamento con 24 ore in Europa. Grazie a Mauro De Angeli in regia, grazie a voi per l'ascolto. Un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.